Capitolo 6. Giugno, miscela per fare fiammiferi. Ingredienti: un'oncia di salnitro in polvere, mezza oncia di minio, mezza oncia di gomma arabica in polvere, una dracma di fosforo, zafferano e cartone. Preparazione: si scioglie la gomma arabica in acqua calda fino a ottenere una pasta non molto densa. Quando è pronta, si unisce il fosforo e lo si fa sciogliere, poi il salnitro. Infine si aggiunge il minio necessario per dar colore. Tita osservava in silenzio il dottor Brown compiere queste operazioni. Era seduta vicino alla finestra di un piccolo laboratorio che il medico aveva nella parte posteriore del cortile di casa sua. La luce, che filtrava dalla finestra, le batteva sulla schiena e le procurava una debole sensazione di calore, così lieve da essere quasi impercettibile. Il suo freddo cronico non le permetteva di scaldarsi, nonostante fosse avvolta nella sua pesante coperta di lana. Di notte continuava ad allungarla da una parte con del filato che John le aveva comprato. Quello era il luogo della casa che entrambi preferivano. Tita l'aveva scoperto una settimana dopo il suo arrivo in casa del dottor John Brown, poiché John, contrariamente a quanto mamma Elena gli aveva chiesto, invece di depositarla in un manicomio, l'aveva portata a vivere con sé. Tita gli sarebbe stata per sempre riconoscente. Forse in un manicomio avrebbe finito per impazzire davvero. Invece lì, con le parole affettuose e le attenzioni che John aveva verso di lei, si sentiva ogni giorno meglio. E ricordava come in un sogno il suo arrivo in quella casa. Tra immagini sfocate conservava il ricordo dell'intenso dolore provato quando il medico le aveva sistemato il naso. E le mani di John, grandi e amorevoli, che le toglievano i vestiti e la lavavano. Poi le staccavano con molta cura la sporcizia dei piccioni da tutto il corpo, lasciandola fresca e profumata. Infine le spazzolavano i capelli con delicatezza e la coricavano in un letto dalle lenzuola inamidate. Quelle mani l'avevano riscattata dall'orrore e non l'avrebbe mai dimenticato. Un giorno, se mai avesse avuto voglia di parlare, le sarebbe piaciuto farlo sapere a John, ma per ora preferiva il silenzio. Aveva molte cose da riordinare nella sua mente e non trovava parole per esprimere ciò che le stava ribollendo dentro da quando aveva lasciato la fattoria. Si sentiva molto sconcertata. I primi giorni non voleva neppure uscire dalla sua stanza e i pasti glieli portava Katie, una signora nordamericana di 70 anni che oltre a occuparsi della cucina doveva badare ad Alex, il figlioletto del medico. Sua madre era morta durante il parto. Tita sentiva Alex ridere e scorazzare in cortile, ma non aveva voglia di conoscerlo. A volte Tita non toccava neppure il cibo. Era un cibo insipido che la disgustava. Invece di mangiare, preferiva trascorrere ore intere a guardarsi le mani. Come un neonato le analizzava e riconosceva che erano sue. Poteva muoverle a suo piacimento, ma non sapeva ancora cosa fare con esse, a parte lavorare a maglia. Non aveva mai avuto tempo di soffermarsi a pensare a queste cose. Vicino a sua madre, ciò che le mani dovevano fare era freddamente prestabilito, non c'erano dubbi. Doveva alzarsi, vestirsi, accendere il fuoco nella stufa, preparare la colazione, dar da mangiare alle bestie, lavare i piatti, fare i letti, preparare il pranzo, lavare i piatti, stirare la biancheria, preparare la cena, lavare i piatti, giorno dopo giorno, anno dopo anno, senza fermarsi un momento. Senza pensare se era quello ciò che si meritavano. Vedendo le ora libere dagli ordini della madre, non sapeva che cosa chiedere di fare alle sue mani. Non aveva mai potuto deciderlo da sola. Potevano fare qualsiasi cosa o trasformarsi in qualsiasi cosa. Se avessero potuto trasformarsi in uccelli e spiccare il volo, le sarebbe piaciuto, forse l'avrebbero portata lontano, il più lontano possibile. Avvicinandosi alla finestra che dava sul cortile, alzò le mani verso il cielo. Voleva fuggire da se stessa. Non voleva pensare a dover prendere una decisione. Non voleva più parlare. Non voleva che le parole gridassero il suo dolore. Desiderò con tutto il cuore che le sue mani si librassero nell'aria. Rimase a lungo così, guardando il fondo azzurro del cielo attraversare le sue mani immobili. Tita pensò che il miracolo stava diventando realtà quando notò che le sue dita incominciavano a trasformarsi in tenue vapore che si alzava verso il cielo e si preparò a salire, attratta da una forza superiore, ma non accadde nulla. Delusa, scoprì che il fumo non le apparteneva. Proveniva da una piccola stanza in fondo al cortile. Un camino diffondeva nell'ambiente un odore gradevole e al tempo stesso familiare. Tita aprì la finestra per poterlo respirare profondamente, chiudendo gli occhi. Si vide seduta insieme a Nacha sul pavimento della cucina a preparare tortillas. Vide la pentola dove cuoceva una zuppa molto profumata, mentre lì vicino i fagioli iniziavano a bollire. Senza esitazioni decise di andare a vedere chi stesse cucinando. Non poteva trattarsi di Katie, una persona che faceva scaturire dal cibo un odore così, beh, sì che sapeva cucinare. Senza averla vista, Tita si riconosceva in lei, chiunque fosse. Attraversò il cortile con decisione, aprì la porta e si trovò davanti una piacevole signora di un'ottantina d'anni. Somigliava molto a Nacha. Una lunga treccia le incorniciava il capo e si stava asciugando il sudore dalla fronte con il grembiule. Il suo volto aveva chiare fattezze indigene. Il tè bolliva in un recipiente di terracotta. Alzò gli occhi, le sorrise amabilmente e la invitò a sedersi vicino a lei. Tita accettò, le offrì subito una tazza di quel delizioso tè. Tita lo beve molto lentamente, gustando al massimo il sapore di quelle erbe sconosciute e al tempo stesso note. Che piacevole sensazione le produceva il calore e il sapore di quell'infuso. Rimase un po' di tempo accanto alla signora. Neppure lei parlava, ma non era necessario. Fin dall'inizio si stabilì tra loro una comunicazione che andava al di là delle parole. Da allora Tita cominciò a farle visita ogni giorno, ma a poco al suo posto cominciò ad esserci il dottor Brown. La prima volta che questo accadde si stupì, non si aspettava di trovarlo lì e neppure si aspettava di trovare cambiato l'arredamento di quel luogo. Ora c'erano molti strumenti scientifici, provette, lampade, termometri. La piccola stufa aveva perso la sua posizione centrale per occupare un angolino della stanza. Sentiva che non era giusto averla messa in disparte, ma siccome non voleva che le sue labbra emettessero alcun suono, si tenne per un'altra volta la sua idea. Rimandò ad altro momento anche la curiosità di sapere chi fosse e che fine avesse fatto quella donna. Doveva però ammettere di gradire moltissimo la compagnia di John. L'unica differenza era che parlava. E invece di cucinare, si dedicava a sperimentare le sue teorie in modo scientifico. Questa tendenza alla sperimentazione John l'aveva ereditata dalla nonna, un'indiana Kickapoo che suo nonno aveva rapito e portato a vivere con lui lontana dalla tribù. Sebbene l'avesse sposata, l'orgogliosa famiglia del nonno, decisamente nordamericana, non l'aveva mai accettata ufficialmente come sua moglie. Allora il nonno le aveva costruito quella stanza in fondo alla casa dove la nonna poteva trascorrere la maggior parte del giorno dedicandosi alla sua attività preferita, studiare le proprietà curative delle piante. Contemporaneamente, quella stanza le serviva come rifugio dalle cattiverie della famiglia. Una delle prime che subì fu quella di vedersi assegnare il nomignolo di la Kickapoo, anziché di essere chiamata con il suo vero nome, e con questo i Brown credevano di darle un enorme fastidio. Ma per loro la parola Kickapoo racchiudeva qualcosa di sgradevole, quanto di più sgradevole ci fosse al mondo. Ma per Luce dell'Alba non era così. Per lei significava tutto il contrario ed era motivo di grande orgoglio. Questo è solo un piccolo esempio della grande differenza di opinioni e concetti esistente tra questi rappresentanti di culture diverse, la quale rendeva impossibile che nei Brown nascesse il desiderio di avvicinarsi agli usi e alle tradizioni di Luce dell'Alba. Dovettero passare degli anni prima che si addentrassero un poco nella cultura della Kickapoo. Fu quando Peter, il nonno di John, ebbe una brutta malattia ai bronchi. I frequenti accessi di tosse lo facevano diventare paonazzo. L'aria non poteva entrargli liberamente nei polmoni. Sua moglie, Mary, che aveva appreso alcune nozioni di medicina perché era figlia di un medico, sapeva che in questi casi l'organismo del malato produce una maggiore quantità di globuli rossi. Per combattere questa situazione, solitamente si raccomandava l'applicazione di un salasso onde evitare che un eccesso di questi globuli producesse un infarto o una trombosi, la qual cosa poteva causare la morte del malato. La nonna di John Cominciò quindi a preparare le sanguisughe per fare il salasso al marito. Durante l'operazione si sentiva veramente orgogliosa di essere al corrente dei migliori ritrovati della scienza, che le permettevano di badare alla salute della sua famiglia in maniera moderna e adeguata, e non con le erbe, come faceva la Kickapoo. Le sanguisughe si mettono in un bicchiere con mezzo dito d'acqua per un'ora. Si lava la parte del corpo su cui si devono applicare con acqua tiepida zuccherata e quindi si posano le sanguisughe su un pezzo di tela pulito con il quale le si ricopre. Infine si applicano sulla parte prescelta avvolgendole bene nella tela e cercando di tenerle raccolte affinché non vadano a succhiare in un altro punto. Se dopo averle staccate occorresse far uscire altro sangue, si può farlo con delle frizioni di acqua calda. Per fermare il sangue e chiudere le piccole ferite si copre la parte con della stoppa di pioppo o con uno straccio e poi si applica un cataplasma di mollica di pane bagnata nel latte che si toglie solo quando le piccole ferite si sono completamente cicatrizzate. Mary fece tutto questo alla lettera, ma quando tolsero le sanguisughe il braccio di Peter cominciò a sanguinare e non si riusciva ad arrestare l'emorragia. Quando la Kickapoo sentì le grida di disperazione che provenivano dalla casa, si precipitò a vedere che cosa stesse accadendo. Si avvicinò al malato e mettendogli una mano sulle ferite riuscì ad arrestare immediatamente l'uscita del sangue. Tutti rimasero molto stupiti. Allora chiese che la lasciassero sola con il malato. Dopo quello che avevano visto, nessuno osò dirle di no. Trascorse tutto il pomeriggio a fianco del suocero cantandogli strane melodie e applicandogli cataplasmi di erbe in mezzo al fumo dell'incenso e della resina di copal che aveva messo a bruciare. Soltanto a notte inoltrata aprì la porta della camera e uscì, avvolta in una nuvola d'incenso. Dietro di lei fece la sua apparizione Peter, completamente ristabilito. Da quel giorno la Kickapoo diventò il medico di famiglia e venne pienamente riconosciuta come guaritrice miracolosa tra la comunità nordamericana. Il nonno avrebbe voluto costruirle un posto più grande dove continuare le ricerche, ma lei si rifiutò. Non poteva esserci in tutta la casa un luogo migliore del suo piccolo laboratorio. John vi aveva passato gran parte dell'infanzia e dell'adolescenza. Quando era entrato all'università aveva smesso di andarci perché le moderne teorie mediche che gli venivano insegnate contrastavano enormemente con quelle della nonna e con quanto imparava da lei. Ma più la scienza medica faceva progressi, più John si riavvicinava a quello che la nonna una volta gli aveva insegnato, e adesso, dopo molti anni di lavoro e di studio, era ritornato nel suo laboratorio, convinto che soltanto lì avrebbe trovato quanto di più avanzato esisteva in fatto di medicina. E questo sarebbe potuto diventare di dominio pubblico se fosse riuscito a dimostrare scientificamente tutte le guarigioni miracolose che Luce dell'Alba aveva ottenuto. A Tita piaceva moltissimo vederlo lavorare. Con lui c'era sempre da imparare e da scoprire qualcosa, come quando nel preparare i fiammiferi le fece una lezione completa sul fosforo e sulle sue proprietà. Nel 1669, raccontava, Brand, un alchimista di Amburgo, nel cercare la pietra filosofale scoprì il fosforo. Credeva che unendo l'urina a un metallo avrebbe ottenuto l'oro. Ciò che invece ottenne fu un corpo luminescente che bruciava con una vivacità mai vista fino ad allora. Per molto tempo il fosforo è stato preparato calcinando fortemente il residuo dell'evaporazione dell'urina in una storta di terracotta il cui collo veniva immerso nell'acqua. Oggi si estrae dalle ossa degli animali che contengono acido fosforico e calce. Il medico, sebbene parlasse, non trascurava la preparazione dei fiammiferi. Senza nessuna difficoltà scindeva l'attività mentale da quella fisica. Poteva addirittura filosofare su aspetti molto profondi della vita senza che le sue mani commettessero errori o facessero delle pause. Mentre chiacchierava con Tita, quindi continuò a fabbricare i fiammiferi. Una volta ottenuta la miscela per i fiammiferi, il passo successivo consiste nel preparare il cartone. Si scioglie in una libbra di acqua una libbra di salnitro e si aggiunge un po' di zafferano per colorarla. In questa soluzione si immerge il cartone. Quando è asciutto si taglia a piccole strisce e sulla punta di ognuna si mette un po' di miscela e poi si fanno asciugare sotto la sabbia. Mentre le striscioline si asciugavano, il medico mostrò a Tita un esperimento. Sebbene il fosforo a temperatura normale, raccontava, non faccia combustione con l'ossigeno, a una temperatura elevata può bruciare con grande rapidità. Osservi, Tita. Il medico introdusse un pezzetto di fosforo in un tubo chiuso ad un'estremità e pieno di mercurio. Fece fondere il fosforo avvicinando il tubo alla fiamma di una candela, poi prese una piccola campana di vetro piena di ossigeno nella quale fece passare molto lentamente il gas. Quando l'ossigeno raggiunse la parte superiore della campana, dove si trovava il fosforo fuso, si produsse una combustione viva e istantanea che l'illuminò come si fosse trattato di un lampo. Come vede, disse ancora John, tutti abbiamo dentro di noi gli elementi necessari per produrre fosforo. Ma c'è di più, lasci che le dica una cosa che non ho mai confidato a nessuno. Mia nonna aveva una teoria molto interessante. Diceva che, benché nasciamo con una scatola di cerini dentro di noi, non possiamo accenderli da soli. Abbiamo bisogno, come nell'esperimento, di ossigeno e dell'aiuto di una candela. Solo che in questo caso l'ossigeno deve provenire, per esempio, dal fiato della persona amata. La candela può essere un tipo qualsiasi di cibo, di musica, di amore, di parola o di suono che faccia scattare il detonatore e accendere in tal modo uno dei fiammiferi. Per un momento ci sentiremo abbagliati da un'intensa emozione, si produrrà dentro di noi un piacevole calore che con il passare del tempo si andrà affievolendo lentamente finché non sopraggiungerà una nuova esplosione a ravvivarlo. Ogni individuo deve scoprire quali sono i detonatori che lo fanno vivere, poiché è la combustione che si produce quando uno di essi si accende a nutrire di energia l'anima. In altre parole, questa combustione è il nostro nutrimento. Se non scopriamo in tempo quali sono i nostri detonatori, la scatola di cerini si inumidisce e non potremo mai più accendere un solo fiammifero. Se questo accade, l'anima fugge dal nostro corpo, va errando nelle tenebre più profonde e cerca invano di trovare nutrimento da sola. Non sa che glielo potrebbe dare soltanto il corpo che ha lasciato inerme e pieno di freddo. Come erano giuste queste parole. Se c'era qualcuno che poteva comprenderle, questa era Tita. Purtroppo, doveva ammettere che i suoi cerini erano pieni di muffa e di umidità. Nessuno avrebbe più potuto accendergliene uno. La cosa triste era che lei conosceva, sì, i suoi detonatori, ma ogni volta che era riuscita ad accendere un fiammifero, glielo avevano inesorabilmente spento. John, quasi leggendole nel pensiero, commentò: «Per questo bisogna star lontani dalle persone che possiedono un fiato gelido. La loro presenza potrebbe da sola spegnere il fuoco più intenso con il risultato che ormai sappiamo. Maggiore distanza prendiamo da queste persone, più facile sarà proteggerci dal loro soffio». E prendendo una mano di Tita tra le sue, aggiunse: «Ci sono molti modi di far asciugare una scatola di cerini umida, ma stia certa che una soluzione esiste». Tita lasciò che le lacrime scorressero sul suo viso. Con dolcezza John gliele asciugò con il suo fazzoletto. «Naturalmente», disse ancora, «bisogna anche fare molta attenzione ad accendere i cerini uno per volta, perché se per una forte emozione si accendessero tutti insieme, produrrebbero un bagliore così intenso da mostrare più di quanto riusciamo a vedere normalmente, e allora, davanti ai nostri occhi, un tunnel splendente ci indicherebbe la strada che abbiamo dimenticato al momento della nascita e ci inviterebbe a ritrovare la nostra perduta origine divina. Quando abbandona il corpo inerte, l'anima desidera far ritorno al luogo da cui è venuta. Da quando mia nonna è morta, sto cercando di dimostrare scientificamente questa teoria. Può darsi che un giorno ci riesca. Lei che cosa ne pensa?» Il dottor Brown smise di parlare per dare tempo a Tita di fare qualche commento se lo desiderava, ma il silenzio della ragazza era come di pietra. «Bene, non voglio annoiarla con le mie chiacchiere. Andiamo a riposare. Prima di andarcene, però, vorrei mostrarle un gioco che io e mia nonna facevamo spesso. Trascorrevamo la maggior parte del giorno qui e mentre giocavo mi ha trasmesso tutte le sue conoscenze. Era una donna molto taciturna, esattamente come lei. Si sedeva davanti a quella stufa con la sua grossa treccia raccolta sulla nuca ed era solita indovinare quello che pensavo. Anch'io volevo imparare e insistendo molto riuscii a farmi dare la prima lezione. La nonna scriveva una frase sul muro con una sostanza invisibile senza essere vista. Io di sera dovevo guardare il muro e dovevo indovinare quello che aveva scritto. Vuole che facciamo la prova? Udendo queste cose, Tita capì che la donna con la quale si era intrattenuta tante volte era la defunta nonna di John. Non aveva più bisogno di chiederglielo ormai. Il medico afferrò un pezzo di fosforo con uno straccetto e lo diede a Tita. Non voglio infrangere la legge del silenzio che lei si è imposta, ma le chiedo, come un segreto tra noi due, di scrivere su questo muro appena sarà uscito i motivi per cui non parla, d'accordo? Domani l'indovinerò davanti a lei. Naturalmente, il medico tralasciò di dire a Tita che una delle proprietà del fosforo era di far brillare di notte ciò che lei avrebbe scritto sul muro. Ovviamente non aveva bisogno di questo sotterfugio per sapere quello che lei pensava, ma finché Tita stabilisse nuovamente una comunicazione cosciente con il mondo, anche se per iscritto, questo poteva essere un buon inizio. John aveva la sensazione che fosse ormai pronta. Appena il medico uscì, Tita prese il pezzetto di fosforo e si avvicinò al muro. Nella notte, quando John Brown entrò nel laboratorio, sorrise compiaciuto, vedendo scritto sul muro a lettere ferme e fosforescenti: Perché non voglio. Tita, con queste tre parole, aveva fatto il primo passo verso la libertà. Intanto Tita, con lo sguardo fisso al soffitto, non smetteva di pensare alle parole di John. Sarebbe stato possibile fare vibrare nuovamente la sua anima. Desiderò con tutta se stessa che fosse così. Doveva trovare qualcuno che riuscisse ad accendere questo desiderio. E se quella persona fosse stato proprio John? Ricordava la piacevole sensazione che le aveva percorso il corpo quando egli l'aveva presa per mano nel laboratorio. No, non sapeva proprio. L'unica cosa di cui era convinta era che non voleva ritornare alla fattoria, mai più avrebbe vissuto vicino a mamma Elena. Continua. Prossima ricetta: brodo di coda di bue.